il quadrifoglio. Consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili. Quattro elementi per la nostra vita. In collaborazione con ARCAV, Associazione Giornalisti Agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige. A cura di Emanuele Cenghiaro. Sempre più spesso sui banchi dei supermercati notiamo quelle confezioni con il cellophane dove all'interno ci sono delle verdure crude o cotte che si possono consumare immediatamente. Ecco, forse pochi sanno che la principale azienda produttrice di questo tipo di prodotti, che hanno un nome particolare, quarta e quinta gamma, è in Veneto, in provincia di Rovigo, Abbadia Polesine, ed è la Ghisetti 1870. Ecco, per conoscere un po' di più questa tipologia di prodotti, abbiamo oggi con noi Andrea Bertolaso, appunto dell'azienda Ghisetti 1870. Grazie di essere con noi. Salve, buongiorno. La cosa che ci incuriosisce intanto è perché di questo nome, cosa significa quarta e quinta gamma e perché quarta e perché quinta? Allora, stiamo parlando ovviamente sempre di ortofrutta. Ortofrutta trasformata, che viene definita appunto quarta o quinta gamma a seconda del grado di trasformazione che ha subito. Se parliamo di quarta gamma, parliamo di prodotto comunque fresco, tagliato, prelavato e pronto al consumo, ma ancora da cuocere. Se parliamo di quinta gamma, il prodotto ha subito un processo ulteriore che è quello di precottura, cottura. Quindi stiamo parlando di cibi che vengono lavorati nella vostra azienda, cioè arrivano freschi a questo stabilimento, poi vengono lavorati e portati, in queste confezionati e portati appunto nelle banche dei supermercati o dei negozi. Esatto, no? Noi praticamente prendiamo questi prodotti freschi, patate, possono essere o carote o altri tipi di verdure, questi prodotti vengono pelati, lavorati, puliti e confezionati a seconda, appunto, come dicevo prima, se si tratta di quarta o di quinta gamma, sotto vuoto oppure in atmosfera modificata, e precotti nel caso si tratti di, ovviamente, di quinta gamma. Ecco, forse noi in Italia siamo poco abituati ad utilizzare questi prodotti già pronti perché magari c'è un po' di poca fiducia. Ecco. Una domanda che uno si fa è da dove vengono questi prodotti oppure quanto tempo passa dal raccolto alla cottura all'arrivo poi sui banchi dei supermercati. Ecco, possiamo un po' sfatare questi dubbi? Sì, sì, diciamo che i prodotti vengono raccolti ovviamente in campagna e qualora ci sia necessità vengono frigo conservati, come posso capitare nelle normali case, nei nostri frigoriferi di casa, e poi vengono subito lavorati, confezionati e posti in vendita. Quindi diciamo che dal prodotto fresco fino alla lavorazione sono poche ore, insomma, quindi poi raggiungono i nostri supermercati, quindi il prodotto è comunque fresco anche se conservato. Quello che noi facciamo è quello di renderlo conservabile per più tempo, ma i valori nutritivi rimangono tutti intatti all'interno del prodotto e della confezione. Perché l'importante è che ci sia un breve passaggio di tempo tra la raccolta e la lavorazione, poi una volta che è fatta la lavorazione, appunto, i tempi si possono allungare. Esatto, esatto. I trattamenti sì, infatti servono per prolungarne quella cosiddetta shelf life, ma i trattamenti che vengono fatti sicuramente non vanno tanto ad intaccare le proprietà nutritive dei prodotti, e quindi possiamo avere un prodotto simile a quello fresco anche per molto tempo. In genere che scadenze hanno questi tipi di prodotti una volta che sono messi, che è stata fatta questa lavorazione? Appunto, i prodotti di quarta gamma hanno una scadenza che va da pochi giorni fino a 15 giorni. I prodotti di quinta gamma possono arrivare anche a 6 mesi, a seconda appunto del tipo di trattamento che hanno subito. Ecco, vengono aggiunti dei prodotti, dei preparati, non so, delle sostanze anche per garantire questa conservazione, oppure è semplicemente una cottura semplice? E lì dipende effettivamente anche il grado di conservabilità che vogliamo dare. Spesso se la conservabilità si riduce a 2-3 mesi, i prodotti sono ovviamente naturali e privi di antiossidanti, di conservanti e di qualsiasi altro tipo di additivo. Quindi di norma quello che voi fate è un prodotto il più possibile naturale? Certo, certo. L'intento nostro ovviamente è di garantire al consumatore, anche da questo punto di vista, di dare un prodotto buono, sano e genuino. Bene, ci fermiamo per qualche minuto, torniamo in linea tra poco. Il quadrifoglio. Consumo critico, agricoltura, ambiente,

a questa nuova tipologia di prodotti che sicuramente ci ha dato anche successo, perché siamo stati i primi a portarli in Italia e tuttora siamo riconosciuti come i leader di prodotti di quinta gamma in Italia. Ecco, che cosa in particolar modo? Lei citava prima le patate, le carote, quali sono i prodotti che maggiormente possono essere utilizzati in questo modo? Noi abbiamo principalmente nell'assortimento patate, carote, rape rosse, pannocchie di mais dolce e poi via via ovviamente abbiamo negli anni inserito nuove referenze come contorni misti vari di verdure con patate, carote, fagiolini oppure legumi e altri tipi di verdure. Ovviamente con questa tecnologia noi possiamo conservare e cuocere tutto, quindi ovviamente la gamma che noi potremmo fare anche nei prossimi anni, se il mercato ci darà ragione, è, dico infinita, ma poco ci manca. Ecco, sono prodotti che basta scaldare oppure necessitano di un'ulteriore cottura per essere pronti? Anche qui dipende da vario tipo di prodotto in cui, come è stato lavorato. Generalmente basta scaldare una piccola cottura di una 10-20 minuti a seconda del prodotto e si possono consumare. Ecco, dove possiamo trovare maggiori informazioni? Forse avete un sito internet e anche dove si trovano i vostri prodotti, se sono commercializzati come Ghisetti o se lavorate per conto terzi, quindi magari si trovano con altri nomi. Allora, noi abbiamo sicuramente un sito che è www.ghisetti.it. I nostri prodotti si trovano sia a nostro marchio che ormai sempre più a marchio delle varie catene della distribuzione. Se pensiamo alla nostra regione, pensiamo alla Lì, ai supermercati Lì, oppure alle Coop, oppure a altri supermercati Despar. Quindi quando nel banco frigo troviamo questi prodotti, queste patate, queste rape precotte, è probabile che siano stati realizzati da voi a Badia Polesine. Quasi certo, perché ovviamente noi siamo i leader in Italia e abbiamo praticamente il mercato italiano, ecco, quasi nostro completamente. Bene, la ringrazio. Grazie a lei. Voltiamo, come si dice, pagina. Vorremmo parlare adesso di grandi predatori. Il COPA COGECA, l'Organizzazione Europea degli Agricoltori, ha abbandonato la piattaforma europea costituita per trovare le soluzioni ai conflitti che emergono dagli attacchi agli allevamenti dei grandi carnivori come orsi, bruni, lupi, ghiottoni e linci, segnalando che le preoccupazioni degli agricoltori sono state un po' ignorate e la loro sopravvivenza viene messa a rischio. Secondo il COPA COGECA, in Europa, nelle zone rurali, soprattutto nella zona della Francia o del nord Europa, si registra la presenza di circa 17.000 orsi, 12.000 lupi, 9.000 linci e 1.000 ghiottoni. In merito a questo, il segretario generale del COPA COGECA, Pekka Pesonen, ha affermato: la Commissione europea non ascolta le preoccupazioni della comunità agricola, ma si concentra sulle buone prassi per la protezione dei grandi carnivori, anziché alla ricerca di soluzioni per migliorare la situazione affrontata dalle popolazioni rurali locali. Gli attacchi agli allevamenti stanno aumentando, generando ingenti perdite in termini di produzione e reddito, minacciando così la sopravvivenza stessa degli agricoltori. Il problema ci riguarda anche da vicino, anche perché per esempio in provincia di Padova, per quanto riguarda le volpi che hanno ricolonizzato la pianura, di recente la provincia ha autorizzato con un decreto l'abbattimento delle volpi appunto nelle zone di ripopolamento e la loro cattura nelle aree adiacenti durante tutto il periodo di chiusura della caccia, quando molte specie si riproducono. Si è espressa in modo molto critico sul provvedimento Legambiente, secondo cui la volpe in realtà non è un animale così dannoso come viene descritto e vi è una sovrastima del problema rispetto ai reali danni provocati. Una buona parte dell'alimentazione, dice Legambiente, dell'alimentazione della volpe è infatti costituita da roditori, ratti, topi selvatici e giovani nutrie. La volpe svolgerebbe quindi un ruolo molto utile nel nostro ecosistema di pianura. Cercheremo di approfondire in futuro questo argomento. Chiudiamo con due brevi notizie. Una giornata informativa tutta dedicata ai giovani che si vogliono avvicinare all'agricoltura sarà organizzata dalla Regione Veneto e Veneto Agricoltura il prossimo 12 marzo. L'evento metterà di fronte i giovani con le nuove sfide del settore primario e farà conoscere le opportunità offerte dai fondi europei e dal programma di sviluppo rurale in particolare. L'appuntamento è alla Corte Benedettina di Legnaro giovedì 12 marzo. Infine, la Commissione europea ha messo a punto due nuovi strumenti finanziari che interessano le piccole e medie imprese e gli enti locali, con l'obiettivo di incentivare progetti di efficienza energetica, tutela della natura e adattamento ai cambiamenti climatici nell'Unione europea.